Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Ascoltatori carissimi, buonasera e ben sintonizzati su queste frequenze per passare un'ora in compagnia di noi, di Gesi e di Antonio. Allora, un saluto grande, grande, come il mare, dai, diciamo, da Gesi. E da Antonio. Antonio. Ben trovati. Ben trovati. Comunque cominciamo il periodo natalizio, eh? È incominciato. Sì, sì, sì, certamente. E adesso ci inoltriamo nelle feste. Bisogna pensare con moderazione. Con diciamo. Moderazione, difatti, difatti. Ho già incominciato a guardare i regali, ma dico sempre spendere con moderazione, perché quest'anno siamo in crisi. Va bene. Ma nonostante questo, noi diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, e il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro, 346 23 20 033. È anche possibile naturalmente l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto cordiale al nostro regista. Ciao Eddie. Io lo chiamo sempre, lo chiamerò Angelo Custode. Adesso poi che siamo in periodo natalizio, Angelo Custode ci sta ancora meglio. Un titolo pertinente. Sì, sì, effettivamente. Oh, stasera abbiamo due ospiti in studio. Prima avremo il dottor Tony Basso e poi il nostro tabarro, signor Tiziano Spigariol. L'uomo del tabarro. L'uomo del tabarro, sì. Allora, prima di tutto ascoltiamo una canzone. La canzone si chiama La Cusina Trevisana. È cantata dal gruppo folcloristico trevigiano diretto da Gianfranco Crespan. Allora ci ascoltiamo La Cusina Trevisana. Chi ben canta, ben beve, disea i nostri veci. Chi ben beve, ben magna. E par questo gavemo una cusina nostrana da ciucciarsi i dei. O carosta col saeno, oilala. Quattro fette de soppressa, oilala. Un giossetto de re fosco, oilala. E me sento rossignol, la la la la. Bianche bisatelle, poi la la, una puntina d'estraveccio, poi la la, un bongotto de raboso, poi la la, e me sento rossignol, la la la la. La cucina trevigiana, la tuta del bottone, la Joy to the tirocke, umanase Eccoci di nuovo in studio e ci ha raggiunto anche il primo ospite, che è il dottor Tony Basso, che noi salutiamo. Dottore, buonasera. Buonasera. Che bello, sì. Allora, riprendiamo la nostra storia, che l'ultima volta è stata veramente interessante. Coinvolgente. Sì, abbiamo parlato di chiese che c'erano, sì, e che non ci sono più, di istituzioni religiose che si sono modificate, ma la città non è fatta solo di istituzioni religiose, anche se all'epoca in cui si è messo mano a questo patrimonio immobiliare, questo era costituito veramente da una parte notevolissima del territorio urbano. Pensate che un terzo del territorio urbano era di proprietà della chiesa, dei conventi, dei monasteri, del vescovo, eccetera. Quindi era una parte molto incisiva che non aveva potuto essere immessa nel mercato, diciamo noi, perché c'era la mano morta, e quindi questa istituzione che impediva le vendite delle proprietà ecclesiastiche. Ma dicevo, c'è non solamente questo, e abbiamo visto come uno degli elementi che è innovativi da un punto di vista tecnico è stato il mezzo di trasporto, che con la istituzione della ferrovia. Però non c'era solamente, anche perché la ferrovia aveva dei percorsi obbligati, non è che il treno potesse andare dovunque, e quindi c'era bisogno anche di strade per trasportare e le persone e le merci. Pensate che Treviso era tutta circondata ancora all'inizio dell'Ottocento dalle mura veneziane, e l'unica breccia, la prima breccia che fu aperta fu proprio in corrispondenza della stazione ferroviaria nel 1852, perché la gente che arrivava a quell'epoca, che arrivava col treno, doveva fare il giro del torrione dove adesso c'è l'Hotel Carlton ed entrare dalla Porta Altinia, perché quello era l'ingresso alla città. Giro. Quindi la prima breccia sulle mura veneziane, dopo secoli di verginità, diciamo così, sì, fu l'apertura della barriera. Si chiamava barriera perché, aprendo le mura, bisognava in qualche maniera controllare anche chi entrava e soprattutto controllare la merce che entrava per far pagare i dazi. E quindi, aperta la mura, fu costruita una cancellata che si chiamava barriera, appunto, e c'era questa barriera daziaria che prima prese il nome dalla regina dell'epoca, che era la regina Elisabetta d'Austria, e si chiamava barriera Elisabetta con l'unificazione del territorio veneto allo Stato italiano, al Regno d'Italia, prese il nome del sovrano e quindi si chiamò Barriera Vittorio Emanuele. Bene. Successivamente, ancora sotto l'Austria, abbiamo l'apertura della Barriera Garibaldi. Perché? La Barriera Garibaldi era presso poco dove adesso c'è la piazza Garibaldi, che ne porta il nome. Sì, lì vicino, che c'era anche il cinema una volta Garibaldi. È lì? No, il cinema Garibaldi era in centro. Ah. La Barriera Garibaldi era a fianco al Sile, Riviera. Ah, capito, dove c'era la vicino al Ponte Dante, e qui, lì c'era il porto di Treviso, il porto fluviale di cui abbiamo parlato, sì, credo, sì, a tempo. Diverse sì. Tempo fa. Porto che era un piccolo porto, e penso che il termine portello non stia a significare piccola porta, ma piccolo porto. Piccolo porto. Infatti, per esempio, a Padova c'è una porta che si chiama Porta Portello, che sa di indicare porta del piccolo porto. Sì. E c'è una stampa di Treviso della metà dell'Ottocento che mostra la chiesa di Sant'Agostino e fa vedere su un edificio, per chi arrivava da San Tommaso, con l'indicazione portello. Quindi chiaramente sta gente che arrivava col carro, che aveva bisogno di andare al porto, al portello, si avvaleva di questa segnalazione toponomastica dell'epoca. Quindi credo che proprio la parola portello debba la sua, che stia a indicare il porto. Quindi lì venne aperta una breccia sulla mura proprio per consentire anche un maggiore passaggio sulla città. Dirò però due cose importanti ancora che si sarebbero verificate, e cioè l'intensificarsi del traffico. Perché cominciavano, abbiamo parlato di industrie, di attività sia pure proto-industriali, ma di gente che si muoveva e che aveva quindi bisogno di percorrere le strade, e quindi la città di Treviso, che è attraversata dal Sile, aveva praticamente un solo ponte, il ponte San Martino sul Sile, perché il ponte Santa Margherita, che noi adesso vediamo bello dritto sul piano stradale, una volta saliva e scendeva, era fatto a schiena d'asino ed era oltretutto un ponte pericolante, per cui venne abbattuto e venne successivamente fatto il ponte nuovo. Ma l'unico ponte che attraversava il Sile era il ponte San Martino. Perciò, per l'intensificarsi del traffico, si rese necessario fare due altri ponti sulle strade, su quella che poi diventò la circonvallazione. Cioè, prima venne aperto nel 1881 il ponte Garibaldi, che metteva in comunicazione la strada del Terraglio con la strada che andava verso Conegliano, Udine, eccetera, eccetera, in modo che ci fosse questo passaggio senza dover attraversare la città. L'altro ponte è il Ponte de Ferro, adesso è diventato di cemento, ma sì, era appunto, come anche il Ponte Garibaldi, era un ponte metallico una volta, solamente dopo l'ultima guerra è stato trasformato in ponte di cemento, allargandone la sede stradale. Il ponte de Ferro non c'era, e quindi la strada, l'attuale viale Trento Trieste, prendeva via Cacciatori, andava quindi Santa Maria del Sile, andava a Sant'Angelo, a Canizzano, esatto, e a Quinto, da quelle parti, e quindi a Padova si andava per quella strada là. Quindi il ponte di ferro collega, avrebbe consentito di arrivare anche a prendere le strade di Feltre, per esempio. La strada di Noale, la strada di Castelfranco, cioè zone che si trovavano dall'altra parte del Sile. E quindi cominciò a delinearsi quella che poi è diventata la circonvallazione, e che adesso si chiama con quella sigla di piano urbano del traffico, che però un altro ponte che doveva essere anche quello costruito o rifatto, quantomeno, perché ce n'era uno molto piccolo sul Botteniga, il ponte che adesso, al quale è stato dato il nome dell'ex sindaco Mazzarolli, si trova sul Botteniga all'ingresso della città. Dentro c'è il ponte Fra Giocondo o il ponte De Pria, all'esterno delle mura c'è. E quindi questi tre ponti hanno consentito la creazione di questo anello di circonvallazione intorno alla città. Ma le aperture sulla città erano ancora soltanto quella della barriera Vittorio Emanuele e della barriera Garibaldi. Cominciano quindi l'apertura di nuovi varchi stradali, e noi li troviamo nel 1906. Il sindaco Felissin ancora auspicava queste aperture. Nel 1906 c'è l'apertura di quella che si chiama Porta Carlo Alberto, di quella che si chiama Porta Calvi e di quella che si chiama Porta Fra Giocondo, che di porte non hanno né la forma né la storia. Niente, ma sarebbe più esatto chiamarle col termine di varchi sicuramente. Quelli lì sono i primi tre varchi che sono stati aperti nell'Ottocento per consentire una maggiore e più intensa comunicazione tra la città e il suburbio, perché al di là delle mura c'erano campi. C'è una fotografia ripresa dal da in cima al campanile di Santa Maria Maggiore, dove si vede in fondo il paese di Fiera. Ma era un paese, la gente che abitava a Fiera quando veniva in città diceva vado a Treviso, come se trattasse di andare su un altro paese. Invece adesso è tutto Treviso, adesso perché, c'è una continuità, non solo, ma i campi, oltre ad esserci fuori delle mura, c'erano anche all'interno della città, la zona di Città Giardino da una parte e la zona dove c'era il deposito di Simonetti, dove c'era il frigorifero, eccetera, certo, eccetera. In questa fotografia si vedono delle vigne, perché era ancora campagna in epoca in cui esisteva la macchina fotografica per fare. Quindi parliamo della seconda metà dell'Ottocento. Sì. Questo per dire la trasformazione che ha subito. Successivamente grande, sono state aperte altri passaggi nelle mura cittadine, alcuni per esempio subito dopo la prima guerra mondiale, per dare lavoro, si diceva, ai disoccupati, quindi per esempio il varco Manzoni venne aperto, il varco Caccianiga, sì, che adesso le chiamano porte, no? Sì, che li chiamano porte, e il varco Piave che sì, è l'uscita dei Borgo Cavalli. Scusi, io volevo dire, il sindaco Felis deve essere stato molto importante, perché hanno dato il nome anche a una scuola. Il viale? Sì. Al viale, ma anche alla scuola. Sì. Felis è una famiglia di origine francese, piemontese, che si è naturalizzata, cioè francese ma naturalizzata piemontese, che è venuta a Treviso. E quindi ecco, sarebbe interessante anche vedere come cambia il tipo di popolazione. Noi abbiamo nell'Ottocento, soprattutto dopo l'Unità d'Italia, abbiamo la presenza di militari che vengono inviati, sì, e raccolti da reclutati da tutta Italia, e soprattutto di funzionari amministrativi mandati da Roma, che li chiamavano i ministerini, erano questi funzionari, e quindi erano, diciamo, i foresti che c'erano in città. Invadevano, avevano dei loro, esatto, quindi è cominciato a perdersi anche quel carattere antico di trevisanità che aveva la nostra popolazione, proprio per questo, la presenza di questi elementi estranei che chiaramente non si trovavano nel loro ambiente naturale. E poi c'è stata tutta quanta l'immigrazione conseguente alle guerre, e soprattutto quella di stranieri che abbiamo attualmente, che ha contribuito a trasformarsi. Ecco, si parlava di Felissant, che i vecchi ancora pronunciavano non Felissant ma la francese, i quali avevano acquistato il convento di Santa Caterina, di cui abbiamo di Santa Cristina, di San Parisio. San Parisio. E avevano la loro villa, il loro palazzo di città in quella sede dove poi è stato aperto il mercato, e mentre la loro villa era a Sant'Artemio. Ecco perché la strada ne viale, porta il nome, il viale, sì, Felissant. Lui anche donò alla città di Treviso l'area per costruire l'ippodromo di Sant'Artemio, perché prima l'ippodromo era su quella che noi chiamavamo quando eravamo ragazzi la piazza d'armi, cioè tutto lo spazio che c'era davanti alla caserma Salsa. Sì, via Santa Maria della Roma. Sì. È molto interessante queste cose. Dopo l'ultima guerra, naturalmente, ma ne parleremo magari un'altra volta, sì, ci sono state altre trasformazioni, sì. E nella viabilità, l'apertura di spazi che non esistevano, per esempio la piazza del mercato, la piazza dei grani, che credo di aver ricordato nel passato, una volta non c'era. Quindi è stato uno spazio aperto successivamente. E ancora sotto l'Austria, lì si sarebbe dovuto fare una specie di fiera campionaria dei prodotti agricoli. E allora la Camera di Commercio allora indisse una raccolta di fondi per costruire questo edificio da adibire a fiera campionaria, diciamo. Ma non riuscirono a far su i soldi sufficienti, fecero un padiglione di legno, comunque, esatto, e fu inaugurato nel 1825 dall'imperatore Leopoldo, mi pare, e però erano state predisposte delle statue delle piccole statue che dovevano decorare questo edificio, statue fatte in cemento, neanche la pescheria, che sono state poi recuperate e donate dalla cassa, dalla Camera di Commercio alla casa di ricovero, e ce ne sono ancora alcune che si trovano vicino a Lomberto I, Lomberto in un terrazzino, sono lì esposte. Chissà che non le, adesso che stanno rifacendo Lomberto I, che non le recuperano, meriterebbero come simbolo del vecchio mercato, perché si vedono dei contadini naturalmente vestiti bene col cappello, che vengono in città a vendere gli asparagi, una memoria storica sì, del nostro mercato. Comunque, ultima domanda, la pescheria non esisteva ancora, vero? No, la pescheria c'era, ma era in un'altra parte. Casomai ne parleremo la prossima volta. Anche per stasera ormai il nostro tempo è scaduto. Siamo arrivati addirittura d'arrivo. Allora noi come sempre la ringraziamo e l'aspettiamo la prossima volta. Grazie e buona serata. Buona serata. Ringraziamo di nuovo il dottor Tony Basso, che come sempre è molto esauriente. E andiamo alla seconda canzone in programma, che è cantata da Albano ed è Il mio concerto per te. Studio con il secondo ospite della serata, un personaggio che sembra uscito da una stampa dell'Ottocento, un imprenditore, un poeta, uno scrittore, un bon vivant, un gastronomo, eccetera, è un tradante. Ecco, questa definizione. Che cosa vuol dire tradante? La lasciamo al personaggio in questione, che è il nostro amico Tiziano Spigarioli. Buonasera, Tiziano. Buonasera, Tiziano. Cari amici. Nonché uomo del Tabarro, mi ero dimenticato, ma quello è ormai. E buonasera a tutti i radioascoltatori. Hanno voluto qui anche stavolta. Ma noi ti vogliamo sempre, sempre qua. Sempre ben volentieri. Ascolta, tanto ti faccio i complimenti per il libro che hai che hai presentato sabato recentemente. Sì, esatto. Sabato sera, mi pare, no? Sì, sì. Ecco, e come è intitolato questo libro? È intitolato, come diceva Antonio, Tradanti. Ah! Ecco la ragione. Che cosa vuol dire? Tradanti, che deriva ovviamente in dialetto, mia lingua madre, da trar, cioè sparare col fucile, e in pratica vorrebbe dire cacciatori nel vecchio gergo, ma più genericamente raccoglitori. Cioè coloro i quali si affidano, confidano nella natura e sanno raccogliere tutto quello che la natura, madre natura, mette a disposizione nelle diverse stagioni. Bene, e quindi sono poesie, vero? No, non sono, per la prima volta non sono poesie, ecco. Sono dei racconti. Bene. Sono 26 piccoli capitoli. Io non sono un grosso scrittore, nel senso che scrivo tante pagine su una cosa, scrivo l'essenziale, poche righe, è un mio modo così di esprimermi, che mi sembra dai primi assensi che sia anche in questo libro molto, molto valido e positivo. Ma hai detto che c'era un sacco di gente, quindi vuol dire che insomma... C'era un sacco di gente, perché sono vecchio e conosco tanta gente, per cui stiamo scherzando, naturalmente. Comunque, avrai qualche racconto che parla dell'inverno, del Natale? Del Natale no. Ma dell'inverno, insomma. Dell'inverno sì. Della stagione? Sì, dell'inverno sì, della stagione, un capitolo intitolato Neve. Mm-hmm. E poi diciamo tante altre cose, la primavera, l'estate, le stagionalità, le marmellate di nonna Antonia, Giorgio, i lucci di San Valentin, come diciamo noi a San Valentin, l'urso mena il coin. Non lo sapevo. Sì, sono tutti quei i primi avvisi della primavera che sta per arrivare, il luccio, pesce predatore, incomincia la frega. E questo, diciamo, suo modo di esternare agli occhi degli altri quello che in lui sta nascendo prepotente, è questo modo di agitare la pinnare migrante. Ci darai un saggio di questi, appunto, parlando dell'inverno, della neve, e dopo parleremo del Natale, come lo vedi tu, come lo festeggi. Esatto. Sicuramente. Che cosa mangi, visto che sei un buon gustaio, ha detto un gastronomo. La risposta è immediata: pita, e cioè femmina di tacchino, d'India. È il piton. No, è il piton, sì. Preferisco la femmina del tacchino. No, ma intendo che il piton è il maschio, esatto. Sì, il maschio della pita o della dindia. Sono termini che mi ricordano, ma io parlo ancora di epoche remote, un modo di intendere le cose quasi con sacralità, con la frugalità che c'era, il divertimento nell'assaggiare queste cose che avveniva una volta ogni tanto, oltretutto, mi pare. Sì, ma che poi diciamo è un mestiere antico, e come tutti i mestieri antichi è certosino. Cioè ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Perché lo fate perché io non lo faccio, non mi piace. No, ma prima di tutto partiamo dalla cova. dalla cova lo facciamo nascere, sì. Lo facciamo nascere e ci vuole tempo. In primavera succede tutto questo e poi ci vogliono 5 mesi, per 6 mesi per avere un risultato soddisfacente. Diventa un tacchino grande, bello grande. Sì, diciamo che la regola fondamentale è che svoia. Che svoia. Cioè lasciarle libere completamente, ecco. Faranno qualche etto in meno, esatto. Ma resto tutta salute. Onda caponera, ma il sapore sarà più buono, sì, sicuramente. Sì. Beh, chiedo scusa, vi interrompo un attimo. I regolamenti, che voi sapete che l'Unione Europea, diciamo, su certe cose ha dei regolamenti estremamente, come dire, punitivi, se vogliamo, per certi versi. In questo caso hanno, come dire, deliberato che debbano essere, le galline debbano essere ovaiole da cortile, non è più accettabile, diciamo, l'altro tipo di, come dire, produzione intensiva. E questo mi pare un rinsavimento generale. Sì, questa è una bella cosa. Se siete d'accordo in questo. Sì, io sono d'accordissimo, anche perché le uova sono buone, non quelle di allevamento, insomma, diciamolo. Sì. Così. E Tiziano cosa dice invece? Beh, che non sei mai massa tardi. Ecco, per rinsavire, per rinsavire, giustamente. Allora, prima nasce il tacchino, poi è allevato in cortile, sì. E poi lo si mangia ripieno. No, prima bisogna ucciderlo. Prima bisogna ucciderlo. Sì. Perché se qualcuno non avesse capito che non riesce a passare senza l'intervento di qualche assassino, tra virgolette, no? Che non riesce a passare dal cortile alla pentola in modo magico, ci vuole qualcuno che si sporchi le mani. E io dico sempre, bisogna insegnare ai bambini anche questo. La, diciamo, crudeltà, se vogliamo, di ammazzare un animale, eccetera, ma questa è la realtà. Una volta, ecco. Ci si conviveva normalmente, sì, adesso sembra una cosa drammatica. Per cui, devono imparare, purtroppo, ma non c'è alternativa, secondo me, perché altrimenti continueremo a raccontare loro delle bugie. Io non ho mai ucciso né galline, però puliti interiormente sì, magari girandomi dall'altra parte. Ma non è. Bene, ci ascoltiamo un'altra canzone? Va benissimo. Bene, allora la terza canzone in programma è cantata da Gino Sant'Ercole, che è il nipote di Celentano. Di Celentano, wow. Esattamente, per parte penso della sorella. Vabbè, e ci canterà Stella d'Argento, una vecchia canzone ripresa. Stella d'argento che sacrilegio. Forse il mio amore morirà di nostalgia, il mio grande tormento lo sai solo tu, stella d'argento. Eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Tiziano. Tiziano, a te la parola. Bene. Allora, fare. Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non ammassano nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro. E chi di voi, per quanto si dia da fare, può forse riaggiungere un'ora alla sua vita? E per rispondere a Matteo 6:26-28, di sicuro il Padre nostro celeste utilizza anche noi e il frutto del nostro lavoro per nutrirli nella più squisita naturalità dell'essere. In quanto a noi, anche se forse non potremo aggiungere neanche un'ora alla predestinata nostra vita, noi continueremo a fare per quella atavica voglia del perseguire che da sempre ci accompagna. Bello. Giusto anche esattamente perché, questo, perché bisogna sempre fare il bisogno di intraprendere così nonostante le difficoltà, nonostante tutto e anche nonostante l'età, non si non si spiegherebbe diversamente il fatto che molti, nonostante le avversità, vogliono, si mettono e si danno, eccetera. Io tante volte mi arrabbio quando dicono quello là ormai ha una certa età, ma se è in grado di fare, perché non deve fare? Ma stiamo scherzando, cioè, il limite è un limite, il limite che ci si è dato, appunto, che ci sia stato che ci è stato imposto nel passato, è un limite culturale, appunto, è un'imposizione della società e non noi lo dobbiamo ribellarci a questo. Pin pin sotto il megamino. Esattamente. E allora in questo Tradanti, capitolo 25, brevissimo, dal titolo Riflessioni, due punti. Il primo dice: le avversità sono solo piccoli intoppi in un grande cammino. E il secondo: bisogna avere sempre una speranza, sopra un'altra speranza. Le cose possono sempre succedere. Esattamente proprio così. Una saggezza. Mai arrendersi all'immediato, cose di questo tipo. Magari nel momento ti arrendi, ma poi devi reagire. È proprio nella natura umana, diciamo, di vincere gli ostacoli. Certo. Ecco questo qua. Piccoli intoppi. Ecco, piccoli questo intoppi. Mi piace come definizione. Piccoli intoppi. In un grande cammino. In un grande cammino. Esattamente. Perché certe volte ce ne sono tanti di piccoli intoppi. Anche se coscienti di quello che siamo. E via via, come il mutare delle stagioni, anche per noi l'età avanza. Sì. Una poesia che dice: mi che tendo sto spettar, beco e ongo storto in ponta, e a me anara che chiama. Passa il tempo, e il tempo cresce, cae a luna e anche a me. Che bello, è folgorante, sì, diciamo, ci dà proprio l'esatta sensazione. È vero di come che cadiamo però è una trasformazione, chiaramente noi non è un decadimento, è una trasformazione, si aumenta la saggezza di solito, tranne casi particolari come il mio. È stata una provocazione, diciamolo, ecco. Ma effettivamente è un qualcosa che ogni stagione ha le sue come posso dire, modalità e peculiarità, al suo bene e al suo male, ed è giusto ed è necessario, certo, viverla fino in fondo. Questo sì, è il fondamento di tutto. Ci sono belle cose anche a 80 anni, a 90, perché, assolutamente vero. Prima di tutto per conoscere e rapportare se stessi agli eventi. Per questo il mio augurio, e io cercherò di farlo assolutamente, ma anche per voi tutti, cercate di vivere più di 100 anni. Oltre a guadagnarli in salute, ne guadagnerete assolutamente in esperienza. Questo è incontrovertibile. Questo è vero. Assolutamente vero. L'esperienza è fondamentale, soprattutto in un tempo come questo, che è stato desertificato da decenni di modelli culturali fuorvianti. È un disegno, secondo me, complessivo proprio di degrado, di lavaggio del cervello, cose di questo tipo. Comunque noi siamo qui oggi, inteso oggi come in questa vita, in questo momento storico e sociale, a dire abbiate speranza, perché esatto, noi crediamo nel futuro, nel futuro, perché amiamo noi stessi e amiamo la gente che ci circonda. Certamente, ecco, questo è un viatico che io mi sento di condividere perfettamente. Si spera anche per le generazioni future. Dobbiamo essere un esempio. Esattamente, certo, esattamente. Perché sono loro i futuri uomini di domani. Certo, certo. E la neve? La neve, dicevamo, giustamente. La neve, diciamo che la neve incomincia così, siccome è un capitolo, leggo poche righe, ma significative. Arrivo. Eccola qua. Era dicembre inoltrato. Un vento forte arrivato dal mare aveva spazzato via le ultime foglie dei rami. Il paesaggio sembrava spettrale. Avevamo portato molta legna pronta tagliata vicino alla stufa della grande cucina. «Selmoea, stanotte nevega!» sentenziò il nonno, e quasi ad accondiscendere quel normale presagio per quella magia che sanno alimentare certe sere in campagna, accendemmo le candele e spegnemmo le luci. Mangiammo così, quasi in un religioso silenzio. Qualcosa di meravigliosamente naturale stava per accadere. Il presagio del nonno si avverò. Ci svegliamo al mattino immersi in un bianco, candido abbraccio naturale. La neve aveva coperto tutto. Durante la notte era scesa e, come fa lei, senza fare il minimo rumore. Sì, è vero. Proprio ti senti come ovattato quando nevi, quando c'è la neve. Peccato che adesso bisogna uscire. Questo, un tempo non c'erano problemi di dover fare tanti chilometri, di dover rispettare i tempi. Adesso bisogna andare a lavorare. C'era la stagione in cui ci si metteva a sistemare gli attrezzi e compagnia, e si guardava fuori. E non c'era tutto questo continuo muoversi. Si giocava a palle di neve. Di tutto. E, e c'era, secondo me, giustamente un clima anche dal punto di vista morale, eccetera, molto, molto diverso di oggi. Niente, non è detto che non si possa ritornare. Non si sa mai. Per esempio, quando arriverà la neve, usciamo e abbracciamo la neve. Il contatto fisico esatto. Insomma, ci insegnerà. Certamente. È un po' freddo, ma insomma. Facevo dei pupazzi di neve grandi una volta. Adesso non so se facciano ancora pupazzi, non credo proprio. Col capello in testa, qua sciarpa in collo e qua carota va fuori il naso. Forse in campagna ne faranno, forse, ma non credo che i ragazzi oggi si divertano a fare pupazzi di neve. Comunque le esigenze sono sempre di queste generazioni, di quelle precedenti, sono sempre le stesse. Voler bene, volersi bene, essere amati e avere un significato per la propria vita. E questo i tradanti lo sanno bene. Sì, bisogna anche proprio vivere per qualcosa, se non si hanno degli interessi, se non si ha un ideale. Non... Esattamente. Ci fermiamo un momentino per un'altra canzone. Adesso ci ascolteremo Roberto Vecchioni nella canzone El bandolero stanco. Il vento che non la carezza più, sarà il quello che da un po' non sta su, sarà quella ruga di ridente nostalgia, o la confusione tra la vita e la poesia. Non assalta treni perché non ne passa mai, non rapina banche perché i soldi sono i suoi, vive di tramonti e di calcolati oblì, e di commoventi ripetuti lunghi e di struggenti addii. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Tiziano per una carrellata finale di spigolature, aforismi, eccetera, eccetera. Beh, un'altra cosa, diciamo, la quale tengo così particolarmente in questo libro Tradanti, che è edito da Piazza Editore, giovane, lo trovate in tutte le migliori librerie della città. È una parte, un capitolo relativo al fieno, nel dialetto fen vuol dire anche facciamo. Sinistra Piave, per ecco, esempio. Anche non sì. Solo fieno. Mm-mm. Allora, una piccola poesia che è testimonianza anche delle pulsioni giovanili della campagna. Fen. Fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, ma non l'avevi mai fatto. Simpatica questa crisi. Una cosa straordinaria. No, sai che cosa? Che non abbiamo letto la prefazione, che forse era importante leggere. La prefazione, leggere. Sì, non l'abbiamo letta. Chi è che l'ha fatta la prefazione? Di sapere chi è... Gian Domenico Mazzucato. Ecco, l'avrei già scommesso. Non si può leggere un pezzettino. Sì, sì, sì, sì. Facciamo una cosina veloce. Esatto. Sì, sì. Gian Domenico. Eccola qua. E incomincia dicendo: udiva dalle rane dei fossati un lungo interminabile poema. E lunghi e interminati erano quelli che io meditai, mirabili a sognare. Stormir di fronde, cinguettio d'uccelli. Giovanni Pascoli, Miricae, Romagna. Ha citato. Sì. Poi dice Tradanti, solo nel finale Tiziano Spigariol spiega questo termine, perché Tradanti si nasce per quello spirito del fare, dell'approvvigionarsi, dell'essere parte della natura e dell'andarne fieri. Poi io salterei un pezzo e un altro amico, Marco Ramanzini, scrive e dice: storie di caccia, appunto, di pesca e di raccolta, di cani e di amici, in una parola, di vita. Marco Ramanzini non è l'avvocato, no? E nella postfazione: Adamo era tradante, Mario Innocente dice: quanto ai figli, Caino fui agricola e Abele pastore. Ah. Formenton par far na puenta, ua palvin e qualche speo di osei, e se manca i osei, al manco auseeti scampai, perché noi posteri, com'era Adamo, tradanti. Ah, sì. Sì. Sono tutte queste memorie, bello. Memorie. E qui è un concentrato di una, come posso dire, uno spaccato di un'epoca che molti di noi, molti dei nostri giovani, ma anche meno giovani, non conoscono. Purtroppo. Era un'epoca appunto di fatica, interminabile fatica, ma anche di, come posso dire, grandi soddisfazioni, di introspezione, perché c'era il tempo di pensare a se stessi, di pensare a quello che si stava facendo. Non era un tempo caotico e frenetico come il nostro. Adesso c'è la tecnica, c'è certe cose vengono fatte con le macchine. Esatto, però la tecnica, ho l'impressione che abbia snaturato il fare, l'uomo artigiano, l'artigenialità. Questo è un copyright del nostro amico Tiziano, l'artigenialità. Ecco, provo a spiegarci un attimo. Io penso a questo, che questo è il perché da tanti anni io continuo a fare e a proporre queste cose, queste storie di vita, praticamente questo modo di vivere a contatto con la natura, che vuol dire conoscenza della natura, per fare in modo che la natura possa essere utilizzata, mai sfruttata. Ecco, questa è la da sottolineare. Per avere anche domani quello che abbiamo oggi, per far avere alle generazioni future quello che hanno avuto le nostre generazioni. Noi avremo tempo, se ci va bene, altri 30, 40, 50 anni, sì. No? Ma sì, non di più. In questo poco tempo dobbiamo riuscire a trasmettere a qualcuno questo messaggio. Questo patrimonio di conoscenze, giustamente. Sì. Sì, perché noi... Altrimenti va, come dire, se non ci riusciamo in questo frangente, poi verrà irrimediabilmente perso, come tante altre cose. Ma io penso che poco o tanto si ritornerà, sai, un po' a quello che era una volta. Sì, però nei cicli storici, eccetera, tante cose ho l'impressione che vadano perdute, soprattutto quelle che meriterebbero invece di essere ricordate. O sbaglio? No, assolutamente, Antonio, hai ragione. Diciamo che non è solo il saper fare, è anche un saper essere. Un saper essere che tiene conto di se stessi, ma tiene conto soprattutto di chi sono gli altri. Secondo me anche e quindi un nuovo termine da riconiare, riconiare perché è antichissimo, certo. Ma siccome è tempo che non viene usato, allora dico un nuovo termine da riconiare, è per esempio la parola rispetto. Che oggi e se non... questo si aprirebbe una parentesi, sì, ma molto non lunga. Quadra ma grafa, no. Addirittura, sì. Solo che naturalmente non abbiamo il tempo. Il tempo, e quindi intanto pensiamo a qualcos'altro e ci sentiamo la nostra. Io volevo dire una cosa, sì, che una cosa importantissima, penso, per poter vivere bene anche, è saper vivere con noi stessi. Hai detto poco, sì. Effettivamente. No, siccome per me è una cosa molto importante, specialmente certo. Oggi che è l'era della solitudine. Concordo pienamente. Ecco. Bene, ci ascoltiamo allora la quinta canzone. Questa canzone piace a me. Purtroppo l'album di Iva Zanicchi che contiene questa canzone non si trova più, quindi io me la tengo tanto cara. La canzone è intitolata È colpa mia. Thank you. mentre come la neve il silenzio discende, la mia mente nel buio di nuovi pensieri pian piano si accende ed illumina piano, ma con luce sincera, ogni dubbio, incertezza che con una mano mi sfiora stasera. Non volevi far male come il sole alla neve, ma con una parola la fede che avevo diventa più lieve. E mi sento sperduta come un falco ferito, che tornando al suo nido non sa la ragione per cui fu colpito. E poi, nascosti scure grotte dentro me, mi trovo nei momenti insieme a te, e ormai capisco che è colpa mia, è solo colpa mia. Se speso troppi sogni con te, alla mia età ti giuro non si può amare solamente a metà. È colpa mia, è solo colpa mia, mi son creduta donna con te. E invece tu, andandotene via, mi hai detto la mia età. Le tue grida d'amore, i tuoi occhi spauriti, una fata morgana che ride beffarda i miei sensi traditi. Come un sasso nel lago, il mio cuore va a fondo, e a scagliarlo alla mano io immaginavo diversa dal mondo. E poi, nascosti scure grotte dentro me, ritrovo i miei momenti insieme a te, e ormai capisco che è colpa mia. A proposito di tradanti, c'è una notizia, diciamo, io vi leggo un capitoletto, proprio veloce veloce, capitoletto dedicato al figlio di Tiziano che ha vinto il campionato italiano di motociclismo ed è una versione umana della natura vegetale, l'olmo. Questo è l'olmo di casa, piantato 32 anni fa alla nascita di mio figlio Olmo, in uno stupendo giorno di inizio novembre. A 2 metri dal piede si biforca in due a ricordare i gemelli, il mio segno zodiacale. A mamma Caterina, mia moglie, l'onore di averlo fatto e partorito, l'olmo, cosa non da poco e che noi maschi mai potremmo fare. In faccia all'olmo, posta su un angolo d'ingresso della casa, in un'iscrizione marmorea, in me drento, in me fora, casa dell'olmo, dove il me drento è la valletta, il buco più profondo della terra che io abbia mai visto, dove con nonno Vittorio e Francesca andavamo a caccia di volpi. Il sole in quel posto freddo e umido non arrivava mai. Di contro il me fora, l'esterno, è considerato tutto il resto del mondo. Questa iscrizione, posta essa stessa a dimora quando l'olmo ha voluto essere un augurio per nostro figlio Olmo affinché potesse in vita trovarsi a casa propria in tutte quelle parti del mondo che lo vedessero passare. Ce lo siamo chiesto molte volte, mia moglie Caterina ed io, noi, radicati qui, forse anche paladini di queste appartenenze, ce n'è voluto del coraggio a pensare ad una cosa del genere. Ma si sa, la vita, per necessità o altro, può riservarci sempre delle sorprese. Anche quest'anno una coppia di colombacci è venuta a nidificare sull'olmo a 3 metri da casa. Ed io credo che l'albero che più degli altri favorisce la vita, di sicuro è benedetto. Pochi profumi sono delicati quanto quello dell'olmo quando germoglia. Bellissimo. Abbiamo una sintesi, una sintesi di tutto. Non ci resta altro che ringraziare tantissimo i nostri amici. E aspettare il nostro Tiziano per la prossima, per una prossima volta, vero Tiziano? Certo. Grazie mille Tiziano. Quando grazie. Vorrete, di sicuro ci sarò. Bene. Buon Natale a tutti e non siate tristi se non avete tanti soldi. L'importante è che stiate bene, in pace con voi stessi e con gli altri. Guarda che hai un'ammiratrice fra le altre, fra tutte quelle, la nostra Franca Turchetto. Perché saluto. Sai, Tiziano. Grazie, buonanotte. Grazie, buonanotte a tutti e come sempre ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.